Pesci, gennaio. I pesci inizieranno l'anno con un Giove in seconda casa. Nel 2022 ci sono state delle importanti novità per i nostri amici dei pesci, mentre nel 2023 verrà richiesto uno sforzo per stabilizzare i successi ottenuti e metabolizzare i cambiamenti. Dal 9 del mese, la luna nera in leone potrà portare luci ed ombre sul lavoro. Siate cauti e non lasciatevi prendere da reazioni troppo impulsive, per quel che riguarda soprattutto le relazioni con i colleghi. Dal 18, Mercurio riprende il moto diretto dal Capricorno, aiutandovi a consolidare nuove amicizie. Nettuno rimarrà negli ultimi gradi del segno per tutto l'anno. I nati nella terza decade ne saranno particolarmente toccati. Le istruzioni per l'uso saranno le seguenti: accettazione, empatia, pur mantenendo uno sguardo razionale e distaccato. In tal modo Nettuno vi sarà amico e vi eviterà di fare errori che potrebbero poi impantanarvi nelle sabbie mobili di un falso sentimento. Con Nettuno sul Sole, i rischi sono di cedere alle manipolazioni. Rimarrete connessi alla sorgente divina, rispettando in primis voi stessi e la vostra integrità. In tal modo Nettuno vi guiderà nell'oceano della consapevolezza e non negli abissi del caos. Febbraio. Dall'8 del mese l'asteroide Vesta entrerà in Ariete, portando chiarezza e buone intuizioni per la gestione delle vostre finanze. Dall'11, Mercurio in Acquario, nel vostro dodicesimo campo, vi aiuterà a comprendere la natura di alcune emozioni che nei mesi scorsi vi avevano sopraffatto. Dal 18 del mese il Sole entrerà nel vostro segno, aiutandovi a percepire la vostra forza e i vostri confini rispetto al prossimo. Vi sentirete centrati e coesi. L'entrata di Venere nell'Ariete, a partire dal 20 del mese, vi aiuterà a trovare una stabilità e concretezza nella vostra vita e avrete piacere di condividere queste nuove acquisizioni con le persone a voi care. Marzo. Dal 7 del mese Saturno entrerà nei pesci. Vi potrete ritrovare a dover gestire delle nuove responsabilità ed assumervi dei ruoli importanti. Altre persone si potranno appoggiare a voi, perché sentiranno istintivamente la vostra forza interiore. Sarà una fase di maturazione, accoglietela con benevolenza e le prove si trasformeranno in doni. Saturno è il maestro del karma, offre doni utili per l'evoluzione. Naturalmente si offende se i doni non saranno accettati. In quel caso potrà portare delle prove non facili da affrontare. Dal 23 del mese Plutone entrerà in Acquario, vostro dodicesimo campo. Tale transito vi permetterà di iniziare un viaggio nel vostro inconscio. Riuscirete a comprendere molto di voi e del vostro passato. Come ogni percorso introspettivo potrà portare con sé momenti di incertezza e di fragilità, ma la presenza di Saturno nel vostro segno vi darà concretezza necessaria per elaborare con serenità ed onestà anche le emozioni più conflittuali. È l'inizio di un viaggio lungo ed intenso che vi porterà ad una nuova visione del mondo. Aprile, il 3 del mese, Mercurio entrerà in Toro nel vostro terzo campo, sostenendovi nelle comunicazioni e nei piccoli viaggi. Se dovrete chiarire qualcosa con i vostri fratelli o parenti, sarà il momento buono per farlo. L'11 Venere entrerà in Gemelli nel vostro quarto campo. Sarete ben disposti verso i familiari e potrete occuparvi con soddisfazione della casa e dei vostri cari. Il 20 Mercurio entrerà in Toro. E sempre il 20 vi sarà un'eclissi molto molto forte ed intensa. Per i pesci saranno 28 giorni di focus su comunicazioni e spostamenti. Ricordate che le eclissi portano con sé sempre un certo livello di complessità. Affrontate il periodo con determinazione, ma allo stesso tempo con accettazione. Maggio, il 7 del mese, Venere entrerà in Cancro, portandovi un benefico trigono dalla casa delle passioni. Quindi sarà un ottimo momento per vivere l'amore. Il 15 del mese, Mercurio riprenderà il moto diretto, favorendovi nella comunicazione e negli spostamenti. Il 16, Giove lascerà il secondo campo per entrare in Toro, vostro terzo campo. Giove, il grande benefico, da questa posizione vi sosterrà nelle dinamiche relazionali, portandovi allegria e sincerità. Se avrete in progetto viaggi o studi, sarà il momento buono per portarli a termine. Giugno, il 7 del mese, Venere entrerà in Leone, dove vi rimarrà per buona parte dell'estate. Sarà un buon periodo per il lavoro e per la cura del vostro corpo. Plutone, l'11 giugno, ritornerà in Capricorno, riportando il focus per i nostri amici dei pesci sulle dinamiche di potere nelle relazioni amicali o negli ambiti associativi. Il lavorio sull'inconscio per qualche mese potrà alleggerirsi. Luglio, dal 10 del mese, Marte entrerà in Vergine. Avrete modo di fare un vaglio delle amicizie e tagliare i rami secchi dove necessario. Vi potranno essere comunque dei nuovi incontri in ambiti sportivi o attraverso azioni comuni. Dall'11 del mese, Mercurio entrerà in Leone, favorendo i vostri contatti lavorativi e le vostre attività nel sociale. Il 12 il nodo nord entrerà in Ariete. Le leggi del karma metteranno luce sul modo di vivere la prosperità. Che si tratti di finanze o di aiuti tramite la provvidenza, scoprirete le dinamiche celesti che presiedono alla legge dell'abbondanza. Agosto, Mercurio nella vostra settima casa effettuerà una forte opposizione con Saturno in Pesci. Il 2 del mese dovrete trovare il giusto equilibrio tra il rispetto di voi stessi e l'accettazione delle esigenze altrui. Non sarà sempre facile, ma verrete guidati nel modo giusto. Intorno al 10, il trigono di Mercurio con Giove in Toro vi indicherà la direzione da prendere. Vi sentirete ispirati e connessi alla fonte divina. Dal 23, il Sole entrerà in Vergine, aiutandovi a comprendere meglio le persone che vi circondano, rendendovi chiari ed espliciti con gli altri. Marte entrerà in Bilancia, dovrete agire per mettere ordine nelle vostre finanze. Momento positivo per la passione, ma cercate di controllare il vostro sistema nervoso. Potreste vivere momenti di sovraccarico difficili da gestire per il vostro sistema nervoso, che predilige armonia ed equilibrio. Il 25 Marte in Vergine in opposizione a Nettuno vi potrebbe portare qualche incomprensione. Cercate di rimandare delle discussioni dove possibile. Il 27 Marte entrerà in Bilancia, portandovi a dovervi confrontare con delle nuove sfide, soprattutto legate alla gestione delle vostre economie. Ma ricordate, ci sarà anche un rinnovato slancio passionale. Non tralasciate questo importante aspetto. Settembre, il 4 del mese, Venere in Leone riprenderà il moto diretto. Sarà un ultimo sprint positivo in ambito professionale. Godetevi i frutti del vostro lavoro. Il 15 Mercurio riprenderà il moto diretto, potrete fidelizzare clienti e rafforzare nuove amicizie. Il giorno dell'equinozio d'autunno il Sole entrerà in Bilancia e sarete consapevoli del vostro potere e delle vostre pulsioni più profonde ed intense. Ottobre, dal 5 del mese Mercurio entrerà in Bilancia, potrete esprimervi in modo efficace e carismatico, sarete apprezzati per le vostre riflessioni e la vostra profondità. Dal 9 del mese Venere entrerà in Vergine, dandovi gentilezza e garbo. La vostra diplomazia vi aprirà nuove porte in ambienti professionali e lavorativi. Dal 22 Mercurio entrerà in Scorpione, portandovi un nuovo brio in campo intellettuale. Potrete avere il piacere di riprendere in mano i libri o fare un viaggio o una visita che possa avere un significato speciale per voi. Dal 28 vi sarà un'eclissi molto molto importante, che stimolerà il vostro settore nono terzo. Vivrete esperienze che vi obbligheranno a riflettere sull'equilibrio tra mente razionale e mente filosofica, riflettere su come trovare un equilibrio tra razionalità e ricerca spirituale. Ci sarà una battaglia di idee nel vostro intimo e alla fine dell'eclissi vi renderete conto che nell'universo c'è spazio per tutto e per tutti. E questa sarà la lezione di questa forte e importante eclissi. Novembre. L'8 del mese Venere entrerà in Bilancia con il giusto garbo, ma riuscirete ad esprimere anche il vostro potere. Il 10 Mercurio raggiungerà Venere in Sagittario, allaccerete contatti e collaborazioni molto utili per la vostra crescita professionale. Il 22 del mese il Sole entrerà anch'esso in Sagittario. Vi potrete esprimere in modo efficace e chiaro anche in ambito professionali e vi sentirete apprezzati e realizzati. Il 24 anche Marte raggiungerà altri pianeti, effettuando un importante stellium nella vostra decima casa. Potrete dare una svolta alla vostra vita professionale, non sovraccaricatevi, ma proseguite con determinazione verso i vostri obiettivi. Dicembre. Il primo del mese Mercurio entrerà in Capricorno. Riuscirete a concentrarvi in modo efficace su amicizie e associazioni. Il 4 del mese Venere farà il suo ingresso in Scorpione. Vi si apriranno nuovi scenari e vi sentirete motivati e benevoli verso le persone che vi circondano. Dal 24 anche Marte entrerà nel vostro decimo campo, in Sagittario. Troverete il modo di tirar fuori le vostre capacità, superando false modestie, e vi sentirete in diritto di mettere dei confini dove conoscenti o colleghi tentassero di invadere il vostro spazio. Per i pesci il 2023 sarà un anno di grande trasformazione. Scopriranno di avere delle potenzialità che non immaginavano di avere. Si sentiranno saldi sulle loro gambe e con uno sguardo che punterà molto più lontano del previsto. Plutone li metterà in contatto con il loro potere, sviscerando le complessità del loro inconscio. Saturno gli aprirà dei nuovi scenari nei quali si sentiranno finalmente protagonisti. E Nettuno, sempre presente nel loro segno, manterrà vibrante la loro aspirazione spirituale.